fermati per tutta la notte gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Il centro di Roma è ormai stato d'assedio, mentre nella mattinata di oggi i cortei non autorizzati si sono costituiti nelle principali città italiane. Ma proviamo a capire meglio cosa sta succedendo attraverso i contributi della nostra redazione.